in primo piano. Buongiorno ai radioascoltatori e, come diceva Zavattini, cominciamo dai fondamentali. Un saluto per scaldarci il cuore, perché le notizie di questi tempi ce lo raffreddano, ma per ora non sono ancora cominciate le notizie di borsa. C'è la casa oggi in prima pagina sui quotidiani italiani. Casa e polemiche. Cominciamo con La Stampa di Torino con il titolo di apertura: Piano casa, scontro tra i poli. Franceschini, così si cementifica l'Italia. Buonaiuti sanno dire solo di no. Mentre Casini apre all'iniziativa del governo, parla il sindaco leghista di Verona Tosi. Il federalismo ci fa ingoiare troppi rospi. E cominciamo con la lettura dell'articolo di Roberto Giovannini. Dario Franceschini boccia senza mezzi termini il piano di Berlusconi per liberalizzare l'edilizia e consentire ai cittadini l'ampliamento degli immobili esistenti. Forse ha ragione il sottosegretario alla presidenza Paolo Buonaiuti, che si attendeva il no dalla vecchia sinistra del segretario del Partito Democratico. Quello che invece pare proprio una novità è che, invece di spaccarsi come al solito in 100 voci dissonanti e discordi, il PD pare compatto sulla posizione del suo segretario. Ma le opinioni sono contrastanti e ci sono opinioni che, per esempio, prendiamo da Il Giornale. L'opinione è quella del direttore Mario Giordano. Il titolo è molto esplicito: Il cemento del no. Non vogliono le case, non vogliono il ponte, non vogliono le strade. Temono la cementificazione, come dice il leader del PD Franceschini, sguardo da iena dentro occhi da boy scout, che adesso ha scoperto il nuovo look del maglioncino. La cementificazione? Ma quale cementificazione? Da anni l'unico cemento che soffoca questo paese è quello dei no. No alla TAV, no alle discariche, no alle centrali, no ai rigassificatori, no ai cantieri, no alle riforme, no al cambiamento. La cementificazione che fa davvero paura è quella delle idee, sono gli encefali a presa lenta, le meningi asfaltate. È questo il cemento che ha bloccato l'Italia, è questo il cemento da cui ci dobbiamo salvare. Abbastanza esplicito, dicevamo, e abbastanza duro. Mentre invece, di contrasto, il commento sull'Unità di Vezio De Lucia, urbanista. La scelta è tra egoismi e legalità, è il titolo dell'editoriale. Il condono universale è questo, universale e senza oblazione, anzi con la gratitudine del governo. È scattato subito il no delle regioni di centrosinistra e immediata è stata la protesta degli ambientalisti, ma si apre uno scontro difficilissimo, irto di insidie, perché il provvedimento berlusconiano solletica gli egoismi più profondi e popolari radicati in tanta parte del nostro paese, in particolare nel Mezzogiorno. Quegli stessi egoismi che nei decenni trascorsi indussero ad affossare ogni tentativo di riforma urbanistica e che nel mese scorso hanno determinato la sconfitta di Renato Soru, e torna in vita quel vasto consenso popolare che ha favorito tre leggi di condono in 18 anni, governo Craxi nel 1985, governi Berlusconi nel 1994 e nel 2003. Il piano casa, diciamo che apre una discussione molto importante e soprattutto evidenzia le posizioni dissonanti tra il centrodestra e il centrosinistra. Sul Messaggero c'è un editoriale di Paolo Savona: grandi opere e edilizia, la doppia sfida per ripartire. E la sintesi dell'economista è questa: respingere tutto questo perché si sostiene che produrranno solo abusi e danni ambientali significa credere ancora che si esca dalla crisi a parole o affidandosi a un tardivo traino del mercato internazionale. Ma non tutto è, dicevamo prima, commentato favorevolmente. Il Secolo XIX riporta un'intervista al leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro, rivolta contro il cemento. E la tesi di Di Pietro va, diciamo così, in contropiede diretto con quella proprio del direttore del giornale Mario Giordano. Bella idea, sostiene Di Pietro in questa intervista. Proprio una bella idea. È come dire agli italiani: volete arricchirvi? Allora fate le rapine in banca. Così Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori ed ex ministro dei Lavori Pubblici, ha stroncato, parlando con il Secolo XIX, la proposta che il premier Silvio Berlusconi vuole portare al prossimo Consiglio dei Ministri, di autorizzare l'aumento delle cubature degli immobili italiani. Con un linguaggio meno colorito ma non meno perentorio, il segretario del Partito Democratico Dario Franceschini aveva espresso la stessa contrarietà agli studi in mezz'ora con Lucia Annunziata. Scusate, il piano è bocciato. Non sarebbe altro che il via ad una nuova cementificazione dell'Italia. Se ne discuterà ancora sicuramente a lungo prima di venerdì, quando il piano del Presidente del Consiglio verrà discusso in Consiglio dei Ministri, e sicuramente ci saranno argomenti per continuare a parlarne e per continuare a discutere. Il tema è molto importante in un paese che ha già vissuto in passato problemi legati proprio a una cementificazione selvaggia, ma è molto delicato perché si tratta anche di garantire, come sostiene il Premier, il rilancio dell'edilizia, un settore fondamentale che potrebbe anche essere un traino per l'auspicata ripresa. Cambiamo tema e cambiamo argomento e passiamo al Corriere della Sera, che sceglie un'apertura diversa. L'apertura è un'apertura dedicata a un attentato in Irlanda del Nord. Il titolo dell'apertura è Belfast, tornano i terroristi, assalto ai militari britannici. E leggiamo la cronaca del corrispondente del Corriere della Sera, Fabio Cavalera, da Londra. Un'esecuzione. I due militari britannici erano usciti dalla caserma di Masserone, nella contea di Antrim, vicino a Belfast. Stavano aspettando le pizze ordinate per diversi commilitoni a una di quelle società che consegnano a domicilio. Hanno sentito sparare, sono corsi fuori e sono rimasti feriti a terra. I killer li hanno raggiunti e finiti. Due ragazzi, poco più che ventenni, arruolati nel genio in attesa di partire per l'Afghanistan. Attentato vigliacco e malvagio, ha commentato il premier Gordon Brown. Sabato sera il terrorismo degli scissionisti dell'IRA, i dissidenti repubblicani che rifiutano la pace e che si riconoscono nella Real IRA, ha riportato l'Irlanda del Nord indietro di qualche anno. E questo è un tema al quale tutti i giornali dedicano importanti servizi proprio perché sul ritorno dei terroristi c'è una preoccupazione internazionale. Sempre in tema di estero, oggi il Corriere della Sera ci offre anche una riflessione molto interessante da Shanghai. Il primo piano, il focus che il Corriere riserva a un argomento che ha ricadute anche sul nostro paese, riguarda l'Expo di Shanghai. E prendo l'inizio, attacco dell'articolo dell'inviato speciale e corrispondente da Pechino, Marco Del Corona. Il titolo è questo: Shanghai, l'Expo della crisi. Lavori in ritardo, non tutti i 185 paesi parteciperanno. USA in forse, 100 nuove stazioni della metropolitana. E questo è uno spaccato di quello che la crisi internazionale porta. Comincia così il pezzo di Marco Del Corona. È questo, una distesa di terra smossa, scura di pioggia, qualche lugubre rudere industriale. Questo sarà il padiglione giapponese. L'ingegnere capo Qiu Bing distende il braccio verso il futuro che per adesso vede solo lui. Sa che le cose nascono dal niente e dal caos. E così appaiono adesso i cantieri dell'Expo di Shanghai, un impasto di niente e di caos. Il padiglione cinese in realtà c'è, quasi. La sua sagoma piramide Maya rovesciata si solleva dagli sfasciumi e domina l'area dei lavori sulla sponda orientale del fiume Wang Pu. La sua anima d'acciaio è stata completata con l'anno nuovo, si chiama la Corona dell'Est, 63 metri in altezza e 220 milioni di dollari di costo, e per settembre sarà pronto, Intorno dovrà prendere forma tutto il resto, quasi 4 km quadrati di strutture e installazioni su questo lato del fiume, 1,35 sull'altra sponda dove sorge la Shanghai storica. Si corre verso un appuntamento che durerà per metà 2010, 184 giorni dal 1 maggio al 31 ottobre, ma lo colonizzerà per intero e già sta trasformando una città pur abituata alle metamorfosi. Expo è un tema importante legato anche a Milano, è legato all'Italia, è legato anche alle polemiche che ci sono state nei giorni scorsi proprio sulla governance di questa importante struttura che definirà la manifestazione italiana del 2015. Cambiamo argomento ancora, anche perché i temi scelti dai giornali sono diversi in questa mattinata e apro con Repubblica. Repubblica sceglie di andare direttamente su un argomento che è stato sviluppato soprattutto nella giornata di ieri. Il titolo di apertura di Repubblica è questo: Vertici Rai, accordo tra i poli. La presidenza ha De Bortoli, ma il PD attacca sul piano casa. La presidenza ha Ferruccio De Bortoli è l'argomento anche dell'articolo, più un retroscena che un articolo firmato da Goffredo De Marchis e Claudio Tito. Comincio. De Bortoli è un nome inattaccabile, all'altezza di Zavoli. Ovviamente Ferruccio De Bortoli, l'attuale direttore del Sole 24 Ore, ex direttore del Corriere della Sera. Dario Franceschini l'ha proposto a metà della scorsa settimana a Gianni Letta. Venerdì, in un incontro a quattro occhi, ha avuto una prima risposta positiva. Poi, ieri pomeriggio, i due si sono sentiti di nuovo al telefono per il via libera definitivo. Silvio Berlusconi, infatti, ha cancellato le ultime ombre, quelle sui suoi vecchi rapporti con l'attuale direttore del Sole e prossimo presidente della RAI. L'addio al Corriere della Sera nel 2003, dettato secondo alcune voci dalla conflittualità con il Cavaliere e lo sfogo pubblico di Berlusconi all'assemblea di Confindustria a Vicenza, alla vigilia delle elezioni del 2006. Il tempo cancella molte cose, ha spiegato Berlusconi ai collaboratori che gli ricordavano il passato, e io non porto rancore. Su queste basi è nato una sorta di patto della mimosa, siglato per l'appunto nella telefonata di ieri tra Franceschini e Gianni Letta. Il segretario del PD ha sparigliato i giochi precedenti, ha cancellato da subito l'ipotesi di una conferma di Claudio Petruccioli d'accordo con il centrodestra, ha sbarrato la strada all'accordo stretto da Walter Veltroni per Pietro Calabrese, gradito invece al PDL. Per portare all'approdo la trattativa ha dovuto trovare un nome veramente nuovo e difficilmente discutibile. Non era l'unico, ma è sempre stato in cima alla lista del leader democratico. Altri candidati sono stati in campo, da Giuliano Amato ad Andrea Manzella, ma De Bortoli ha sempre avuto la priorità. E questo è un tema sul quale probabilmente nelle prossime ore si arriverà alla definizione anche di un nuovo organigramma che riguarda i telegiornali della RAI e che riguarda questa estenuante vicenda, questo lungo braccio di ferro che, se andrà in porto in questo modo, porterà due figure di primissimo piano al vertice dell'azienda radiotelevisiva italiana, Ferruccio De Bortoli e Sergio Zavoli. Andiamo su un'altra notizia che è sulla prima pagina di Repubblica. Gli scienziati processano l'ora legale. Non è vero che fa risparmiare. Leggiamo dal servizio di Luigi Bignami. Entro la fine di marzo, circa un quarto della popolazione mondiale perderà un'ora di sonno, in compenso guadagnerà un'ora di sole in più al giorno. Questo grazie all'introduzione dell'ora legale che negli Stati Uniti è scattata ieri in anticipo di alcune settimane rispetto all'Europa e all'Italia, dove inizierà il 29 marzo per terminare il 25 ottobre. Generalmente si sostiene che lo spostamento a ritroso delle lancette serva per risparmiare energia, ma recentemente alcune ricerche hanno avanzato più di un dubbio. L'idea di spostare le lancette indietro di un'ora durante l'estate fu avanzata già da Benjamin Franklin nel 1784, ma venne introdotta solo nel periodo della Prima Guerra Mondiale, al fine di economizzare energia. Il primo lavoro di verifica per capire se davvero l'ora legale faccia risparmiare energia venne realizzato nel 1970 dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, il quale giunse alla conclusione che se ne risparmia circa l'1% rispetto a quanto si utilizza l'ora solare. Per molto tempo ci si è fidati di tale dato, ma le cose sono via via cambiato quando i condizionatori d'aria sono entrati in modo prepotente in case e in uffici. Nel 2006, per la prima volta, l'ora legale venne introdotta dallo Stato dell'Indiana e un lavoro realizzato l'anno successivo dall'economista Matthew Cochen dell'Università della California ha sorprendente messo in luce che essa fa addirittura aumentare i consumi di elettricità dell'1%, facendo perdere allo Stato 9 milioni di dollari all'anno. E questo, per i nemici dell'ora legale, sicuramente è una buona notizia. Andiamo su un'altra notizia, su una notizia curiosa che trovo sul Sole 24 Ore. Sorpassi democratici, è l'occhiello. Sorpresa, al nord si vive più che al sud. Rispetto al 1974, a Milano e Venezia, la crescita maggiore delle aspettative di longevità. Il servizio è di Gianni Trovati. L'ambiente è importante, gli stili di vita pure, ma il vero elisir di lunga vita si chiama benessere, lo sanno bene, o almeno dovrebbero essersene accorti, gli uomini che abitano in Lombardia, Veneto, Trentino, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, gli unici italiani che negli ultimi 35 anni hanno visto allungarsi di oltre il 15% il proprio tasso di longevità. A dirlo sono i numeri sulla speranza di vita, concetto astratto ma tradotto in numeri concretissimi dall'Istat nei propri indici periodici sulle prospettive di vita territoriali. L'ultimo, appena diffuso, mostra una classifica capovolta rispetto a quella calcolata nel 1974, l'anno a cui risalgono le tabelle disponibili sui tassi di mortalità. All'epoca a primeggiare erano calabresi, oggi dodicesimi, abruzzesi, ora settimi, lucani, ora tredicesimi, oggi scalzati in classifica dall'impennata della longevità media in Padania. Da questo ribaltamento escono indenni solo le Marche, che nel 2008 tagliano per prime il traguardo della speranza di vita di uomini, 79 anni e mezzo, e donne, 85 anni e un mese. A chiudere il gruppo sono invece uomini e donne della Campania. Si tratta, è chiaro, di un gioco statistico che, senza voler essere troppo scientifico, offre comunque indicazioni importanti. E io lo leggo a una notizia, che è il titolo della Gazzetta dello Sport. Il titolo della Gazzetta dello Sport di oggi è Strepitoso Pippo, e il commento che arriva appena dopo, firmato da Germano Bovolenta, è intitolato «I nostri vecchi», quasi a dar ragione alla tesi sostenuta prima dall'articolo del Sole 24 Ore, in quanto Pippo Inzaghi con una tripletta è tornato prepotentemente in primissimo piano. Anche Di Vaio, il bomber del Bologna, ha segnato 3 gol, e questo, diciamo così, riporta a galla alcuni veterani del campionato italiano di calcio che hanno firmato, diciamo, la vittoria delle loro squadre. L'ultima notizia, notizia curiosa, notizia comunque che anche questa non mancherà di fare discutere, la prendiamo dal secolo XIX e viene da Oxford, dalla scoperta di uno scienziato, un po' bizzarra ma comunque originale. Il titolo è questo: ragazzi a scuola più tardi, fino alle 11 non connettono. E l'articolo è firmato da Claudio Paglieri. Occhi cisposi, capelli arruffati, bocche spalancate in infiniti sbadigli. Alle 8 del mattino l'attività cerebrale di una classe di 14enni è ai minimi della giornata ed è assurdo, anzi crudele, costringere quei poveri ragazzi a seguire una lezione di matematica o di storia. Lo sostiene Russell Foster, professore di neuroscienza circadiana all'Università di Oxford, destinato a diventare un idolo per milioni di adolescenti. Si è infatti impegnato nella difficile battaglia di cambiare gli orari scolastici facendoli slittare verso il pomeriggio, quando la capacità di apprendimento degli studenti è a suo avviso decisamente superiore. E Anche questo è una notizia che forse ci rallegra all'inizio della mattinata, all'inizio della nostra giornata. Andare a scuola più tardi è sicuramente stato uno degli obiettivi di tutti gli studenti italiani e forse del mondo.